vaga distrattamente abbandonato. L'occhio sotto capiello a nasconnuto, mani in da sacco e va braizzato. Vaga fiscanni stella caso asciuto e a luna rossa ma parli te, il domani si aspetta a me e mi risponde se io può sapere che non ci sta nessuna e chi amo non potte vedere, ma tutta gente che parla te risponde tardi che può sapere che non ci sta nessuna. Mille più appuntamento aggiunto, tante più sigarette ha già picciato, tanta tazze caffè mi so bevuto, mille bucchelli la mano arce vasato e a luna rossa ma parli te, il domani si aspetta a me e mi risponde se io può sapere che non ci sta nessuna e chi amo non potete vedere, ma tutta gente che parla te risponde tardi che vuoi sapere che non ci sta nessuna luna rossa. Chi mi sarà sincera luna rossa se ne chiudo la da sera senza mi vedere. E chi amo non ma tutta gente che parla te risponde tardi che può sapere che non ci sta nessuna.